Se il conducente non fosse sicuro di trovarsi nel posto giusto, era l'ultimo modello, quello con il motore 8x1 da oltre 500 cavalli, un'auto che costava quanto Marco guadagnava in 10 anni di lavoro. L'auto si fermò e dal posto di guida scese un uomo che sembrava uscito dalla copertina di una rivista di moda. Aveva circa 45 anni, capelli grigi perfettamente seminati, un completo blu scuro che anche a distanza si capiva essere di sartoria italiana della migliore qualità. Al polso portava un orologio che probabilmente valeva più dell'intera officina di Marco. L'uomo si guardò intorno con un'espressione di evidente dolore, osservando le pareti aggredite dall'olio, i pezzi di ricambio accatastati disordinatamente, la stufa a gas che emetteva un debole calore. Il suo sguardo si posò infine su Marco e qualcosa nel suo volto si contrasse in una smorfia di superiorità appena trattenuta. Marco si avvicinò con il suo solito passo tranquillo, senza fretta e senza particolare deferenza. Aveva imparato da tempo che i soldi non rendevano le persone migliori o peggiori, le rendevano solo più visibili per quello che erano realmente. L'uomo incompleto si presentò come Roberto Mancini, imprenditore nel settore del lusso, proprietario di una catena di cucine che vendeva un abbigliamento firmato in tutta Italia. Spiegò che la sua Maserati aveva un problema che nessuno riusciva a risolvere. Il motore perdeva potenza improvvisamente, senza alcun preavviso, soprattutto durante le accelerazioni brusche. Aveva portato l'auto dai concessionari ufficiali Maserati a Milano, a Torino, persino a Modena, nella sede centrale. Ma nessuno era riuscito a trovare il guasto. Gli ingegneri avevano cambiato sensori, centralini, componenti elettronici del valore di migliaia di euro. Ma il problema persisteva. Alla fine, qualcuno gli aveva suggerito questa piccola officina di provincia dove dicevano che era un miliardo e di motori ne capiva più di chiunque altro. Mentre Roberto parlava, il suo tono tradiva chiaramente che considerava questa visita una perdita di tempo. Un ultimo tentativo disperato prima di rassegnarsi a rivendere l'auto. Non credeva davvero che quel meccanico dalle mani sporche potesse riuscire come i migliori ingegneri d'Italia. Dove i migliori ingegneri d'Italia avevano fallito. Marco ascoltò in silenzio, annuendo di tanto in tanto, senza mostrare alcuna reazione alle frecciate sottili che Roberto lanciava sulla modestia dell'officina e sull'improbabilità che qualcuno in quel posto potesse essere d'aiuto. Quando l'imprenditore ebbe finito di parlare, Marco chiese semplicemente di poter dare un'occhiata al motore. Marco si avvicinò alla Maserati con un rispetto che non aveva nulla a che vedere con il suo valore economico. Era il rispetto di un'antica, per un'opera d'arte, il padre di un figlio che non aveva più visto da anni. Perché quella macchina, quel motore che ronzava sommessamente sotto il cofano con lo champagne, era in parte una sua creazione. Aprì il cofano con gesti misurati e rimase per un lungo momento a osservare il motore, come un medico che studia il paziente prima di formulare una diagnosi. I suoi occhi esperti percorsero ogni centimetro di quella meraviglia meccanica, riconoscendo componenti che lui stesso aveva contribuito a progettare in 15 anni prima. Roberto si stava osservando la scena con le braccia incrociate e un'espressione di scetticismo malcelato. Controllava nervosamente l'orologio ogni pochi secondi, ecco per sottolineare quanto il suo tempo fosse prezioso, il fatto questa visita fosse prezioso, il fatto questa visita fosse probabilmente uno spreco. Marco non gli prestava attenzione, la sua mente era completamente assorbita dal motore. Chiese a Roberto di avviare l'auto e di accelerare leggermente, poi di portare il motore sulle argini più alte, ascoltò il suono con gli occhi chiusi, la testa leggermente inclinata, come un direttore d'orchestra di una nota stonata di una sinfonia. Dopo meno di un minuto, Marco riaprì gli occhi. Sapeva esattamente qual era il problema. Era un difetto che conosceva bene, perché era stato lui stesso a segnalarlo durante la fase di progettazione. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Uff.